Siamo al telefono con Sarah Yurur, buongiorno e benvenuta sui microfoni di Radio Città Fujiko. Ciao Rachele, grazie per avermi qui per questa intervista, buongiorno anche a te. Primo appuntamento cinematografico del 2021 inizia con la rassegna Kino Beats, di che cosa si tratta? Allora, la rassegna Kino Beats è una rassegna cinematografica che curiamo noi come Kinodromo in collaborazione con Link Bologna. Si trattano dei film intorno al tema della musica elettronica e del clubbing. Questa sarà la seconda puntata, diciamo, il secondo appuntamento di Kino Beats. Il primo l'abbiamo fatto in estate a Link, perché l'idea è nata che in realtà noi dovevamo fare delle proiezioni a Link, che poi venivano seguiti da una festa di DJ set, insomma, qualcosa comunque relato al clubbing e alla musica elettronica. Poi purtroppo è capitato tutto quello che è capitato, perciò non c'era più possibile di fare delle proiezioni proprio in persona. Allora abbiamo optato per la seconda volta di fare un evento online. Questo è anche il primo evento di Kinodromo di quest'anno, che faremo appunto stasera online, ovvero la proiezione su OpenDDB. Esatto, come sarà possibile seguire, partecipare, il costo della serata, qualche informazione su come avviene, certo, anche da un punto di vista diciamo pratico, perché comunque sono cose a cui non siamo troppo abituati, ecco. Lo so. Allora, intanto l'evento è stasera alle ore 21 sulla pagina Facebook di Kinodromo, di Link Bologna e di OpenDDB. Facciamo una breve presentazione su streaming. Io e Federico Collina di Link presenteremo il film molto brevemente e da quell'ora fino a mezzanotte di stasera il film sarà disponibile online su opendb.it, acquistando in prevendita, anche da adesso si possono acquistare i biglietti, il biglietto al costo di 6 euro. Ovviamente questo biglietto si può acquistare anche alle 9, alle 10 o anche alle 11, cioè una volta che acquistato si può vedere se sarà disponibile online fino a mezzanotte. Ti volevo chiedere, com'è avvenuta questa collaborazione tra il Kinodromo e il Link, che sembrano appunto due realtà apparentemente distanti tra loro? Link ci ha contattato per una possibile collaborazione e poi siamo venuti proprio in due con questa idea di fare una rassegna cinematografica più la festa. Kinodromo già in sé anche ha collaborato per tanti anni con tante realtà bolognesi, sia cinematografici che non, perciò secondo me c'era proprio questa volontà di fare qualcosa insieme da tutte le parti, perché comunque noi ci teniamo molto a uscire dal nostro cinema Europa e anche fare eventi in quartieri diversi, fare comunque magari eventi correlati con arte, musica, teatro. Anche quando eravamo in Loft facevamo comunque tanti eventi di diversi progetti oltre al cinema. Adesso continuiamo a fare queste collaborazioni e questa è una buona occasione che abbiamo iniziato questo Kino Beats con Link. Speriamo ovviamente di tornare a farlo da loro a Link con appunto l'evento che avevamo in mente all'inizio, ovvero prima scegliere un film che racconti un musicista o comunque racconti magari qualcosa sulla musica, e che poi però appunto ci sia anche la parte musica dal vivo, comunque un DJ set che segue la serata. Certo, quindi non sai se ci saranno altri appuntamenti, come proseguirà insomma la rassegna, non si sa ancora bene. Allora, altri appuntamenti sicuramente ci saranno, per ora non abbiamo deciso una data e poi ovviamente il luogo è un po' vago in questo momento decidere e non dipende molto da noi, perciò attendiamo un attimo magari anche i nuovi decreti, vediamo come procedere. Ovviamente se poi tutto rimane fermo lo faremo online e poi d'estate speriamo di fare un evento all'aperto, però per ora non ci sono sicurezze su questo. Certo, assolutamente, siamo tutti senza sicurezze purtroppo. Esatto. Purtroppo sì. Bene, quindi ricordo che questa sera parte la nuova rassegna Kino Beats per un nuovo appuntamento cinematografico di questo 2021. Grazie mille e ci risentiremo per i nuovi appuntamenti, speriamo. Grazie a te.